Buonasera e benvenuti a questa prima puntata della decima stagione di Mighty FM. Chi vi parla è sempre Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Kairos. Una puntata speciale arrivata un po' a sorpresa, molto lunghi con i tempi per impegni, viaggi, lavoro eccetera, ma siamo qui per parlare dello Spring Attitude Festival che ha cambiato mese, si svolge da oggi a domenica all'alba a Roma. Ogni anno abbiamo fatto una trasmissione dedicata a questo evento che prima si svolgeva a fine maggio, invece adesso si svolge in questo weekend. Un programma ricchissimo, abbiamo dovuto fare una selezione per motivi di tempo, anche una puntata speciale per Mighty FM, perché come annunciato adesso all'ultimo sui nostri canali social, Mighty FM passerà sulle frequenze e in streaming a Radio Fujiko. Le dirette inizieranno forse dalla prossima settimana, restate sintonizzati, è il decimo anno, la decima stagione, insomma un traguardo importante, un passaggio importante, ma bando alla autoreferenzialità, parliamo del festival, parliamo di una programmazione molto molto ricca che inizia appunto oggi con una collaborazione speciale con Roma Europa Festival negli spazi del Museo Macro a Testaccio, che già in passato aveva ospitato questa rassegna, ma in questo caso si tratta di un programma speciale fatto in collaborazione con Roma Europa Festival per appunto una panoramica di performance interdisciplinari multimediali dal titolo Digital Attitude. Si inizierà appunto tra un'ora negli spazi del Macro Testaccio con diverse appunto performance. Alle 19 Camilla Card Virtual Reality Experience, che comunque prosegue per tutta la serata, quindi è un'installazione continua fino a fine serata a l'una, seguito dai nostri tra virgolette, insomma li conosciamo da tanto, Quiet Ensemble, che eseguiranno la Beck Symphony dopo averci regalato a Robot qui a Bologna nella decima edizione che si è appena conclusa una installazione fatta di cellophane fluttuante. Poi ci sarà Marco Donnarumma in collaborazione con Margherita Pevere, prima performance dal titolo Engweide, e alla fine un grande nome, Rolly Porter con MFO Visuals nella sala Teatro del Macro a Testaccio. Ma invece passiamo al programma musicale, insomma più in termini stretti, che inizierà domani. Si parte alle 22 e invece la sede della programmazione del weekend sarà quella dell'ex Dogana nel quartiere San Lorenzo. Il programma inizia alle 22.30 con il Spring Attitude Stage. È vero, ci sono anche altri concerti, un altro concerto che inizierà allo stesso orario in un altro stage, ma noi andiamo in ordine di programma, quindi seguiremo, illustreremo insomma quasi tutta la programmazione palco per palco, giorno per giorno, ed è così che iniziamo con gli Ariwo. Si tratta di un quartetto cubano-iraniano concentrato appunto sull'esplorazione musicale dell'intersezione tra musica elettronica e musica ancestrale, appunto soprattutto della tradizione afro-cubana. Si sono esibiti in Italia, sono quasi sicura, a Line Check nel novembre dell'anno scorso, hanno pubblicato un EP di 4 tracce omonimo e poi invece molto più recentemente un nuovo pezzo, si chiama Pyramid, e ne stiamo ascoltando il radio edit perché i loro pezzi sono sempre molto molto lunghi, penso che quello originale sia oltre 10 minuti. Thank you. E finisce così il pezzo dei Yariwo. Il festival, come abbiamo scritto nella nostra presentazione di questa puntata, è sempre stato molto molto attento alla musica non strettamente del mondo occidentale, ma ai suoni che vengono dalle periferie del mondo, da quella periferia che poi si sposta nei centri nevralgici dell'emisfero settentrionale del mondo. È sempre stato così, prima ancora che insomma diventasse un po' una moda, ecco, l'ho detto. Ed infatti il secondo act del stage principale, il Spring Attitude Stage, nella serata di domani, sarà di un duo che viene da Parigi, di base a Parigi, ma che ha suoni assolutamente tribali e non europei, ovvero è un duo, si chiamano Cheghe, e questo è il pezzo omonimo appunto del loro EP Survivor, uscito nel 2017. Cheghe, duo di base a Parigi, formato da Fatih Si Savanette e da Daku, tra l'altro non so chi sia uno dei due, molto molto queer. Stiamo parlando dello Spring Attitude, uno speciale che di diritto insomma avrebbe fatto The New Spring. Sì, spesso a Roma è così, che a ottobre c'è ancora un clima molto molto primaverile, e siamo all'illustrazione della programmazione di domani. Dopo aver sentito Ariwo e Cheghe, passiamo a mezzanotte e tre quarti, quando sul Spring Attitude Stage ci sarà The Maghreban, che in realtà è uno dei diversi pseudonimi dell'anglosassone Ayman Rostom, che è anche pubblicato in passato con un altro alias, Dr. Zygott, da più di 20 anni, appunto apprezzato producer di base a Londra. E invece ci ascoltiamo questa prima pubblicazione per la RNS. Si tratta di un singolo, un pezzo che si chiama Monster VIP, The Maghreban. Jason è stato definito un side project house, magari era così nella sua prima pubblicazione con questo nuovo alias, ovvero O1 Ideas, o Ideas, dove l'uno vale per I di Ideas, mentre questa pubblicazione Monster VIP ci sembra invece un pezzo un po', non so, drum and bass dark. Dopo la fine del DJ set, in questo caso Ariwo e Cheghe saranno dei live, questo di The Magreban sarà un DJ set, seguirà alle 2 un DJ set di Jeremy Underground di natura prettamente house, seguito da un nome mitico per chi conosce Primavera Sound Festival di Barcellona, ovvero quello che porta tutti a casa, quello che fa il DJ set conclusivo del festival a Barcellona e che quest'anno è stato anche ospite del Primavera Sound di Porto, ovvero DJ Coco, che chiuderà il Spring Attitude Stage alle 6, iniziando a suonare alle 4:30. Dicevo che parallelamente alla programmazione sullo stage principale ci sarà un altro palco chiamato Italian Attitude Stage, sponsorizzato dalla Molinari, quindi assolutamente italiano, dedicato appunto alle realtà italiane emergenti già affermate, più interessanti insomma di questo periodo, che a detta di tutti e direi anche in qualsiasi ambito, cioè dal pop più commerciale alla trap, all'elettronica, eccetera eccetera, vede insomma in Italia insomma c'è un momento di grande fermento, di grande produzione e anche di grande qualità, e appunto questo palco aprirà sempre alle 22:30 insieme al Spring Attitude Stage e aprirà con il Campano Maiole di base a Bologna. Ho letto, ha pubblicato Music for Europe, un album, e poi tantissimi singoli anche nel 2018, se vedete su Spotify c'è singolo, uno di questi che abbiamo scelto di ascoltare è Bitcoin, tra parentesi, gioventù. Rewind, come facevano i DJ di dubstep. Siccome ci ho parlato tanto sopra ed è un pezzo molto breve, ho rimesso da capo Maiole da Santa Maria Capua Vetere a Bologna e a Roma, domani sera alle 22:30 sul Italian Attitude Stage. I'm valgono tanto e non servono a niente. Una, diciamo, definizione molto succinta sulla valuta immateriale e telematica e totalmente digitale dei Bitcoin. E dopo Maiole sul Italian Hatch ci sarà una del italiano, ovvero Gemello, tra l'altro classe 84, laureatosi in Belle Arti nel 2006, anno in cui pubblica anche il suo primo album. Poi ha fatto parte di crew come Truce Clan e In The Panchine. Guardami ridere ancora per l'ultima volta. Poi un EP nel 2014, Niagara, seguito da un altro EP nel 2017, Indiana, da cui ci ascoltiamo questo pezzo con In testa le nuvole. Siamo fatti, forse farebbe qualcosa di grande, forse saremo più in alto di queste montagne, a strillare e fatti guardare con gli occhi di ruggine, guardia da pugni, vengono giù, le anime luci, scali distrutti saranno sì i nostri rifugi, vieni qui adesso. Con in testa le nuvole, con in testa le nuvole. Siamo su Marte, il cuore qui non parte. Batte, vieni a vedere quanta luce si nasconde. Scende la nube di frutti, fuggiamo strisciando la carta da sotto, via dei condotti. Reggiamo sta croce, affondiamo, arriviamo alla fuga di te. Vorrei capire che altro sapere, perché siamo qui, che ne è stato di te. Vengono giù, le anime luci, scalami dei punti distrutti saranno sui nostri rifugi. Vieni qui adesso, con in testa le nuvole, con gli occhi di ruggine, guardia da pugni. Vengono giù, le anime luci. Le nuvole, tratto da Indiana del 2017, ci abbiamo attaccato Lucertole, che è un featuring di Gemello per un pezzo di Frenetic and Orange, è uscito quest'anno. Siamo straordinari, oh, vedo le stelle sul soffitto. Mangiami le labbra come Skittles. Mi piace scrivere, rivivere, riscrivere. G, piccola tigre che poi vince sempre. Scommetto il mondo che sei ancora lì da qualche parte. Se penso a te, penso in te. Ho scritto un pezzo che stanotte viene giù l'inferno. Viene giù l'inferno, viene giù l'inferno. Io e te ci amiamo solo quando è inverno. Solo quando è inferno. Scommetto il mondo che sei ancora qui. Queste strade piene di persone, senza neanche guardare le stelle. Le metto in giro, scrivo una canzone. Scommetto il mondo che sei ancora qui. Queste strade piene di persone, senza neanche guardare le stelle. Le metto in giro, scrivo una canzone. Ho scritto un pezzo che stanotte viene giù l'inferno. Viene giù l'inferno, viene giù l'inferno. Io e te ci amiamo solo quando è inverno. Solo quando è inferno. Porti la luce coi tuoi occhi in queste strade vuote. Cambi l'umore in base al sole che ti porti dentro. Con le mie forze io ti immergo e poi ti tengo a galla. Dai, apri le mani ed esce una farfalla. Questa è la start of your ending. Siamo tipo sotto i ferri. La testa gira anche se siamo fermi qui. Come lucertole al sole senza coda. La tangenziale che si snoda e che ci annoda tutti. Ho scritto un pezzo che stanotte viene giù l'inferno. Viene giù l'inferno, viene giù l'inferno. Io e te ci amiamo solo quando è inverno. Solo quando è inferno. Quando è inferno. Ancora qui, queste strade piene di perché guardare. Ancora qui, queste strade piene di persone, senza neanche guardare le stelle. Scertole, un bel pezzo con la voce di Gemello per una produzione Frenetic and Orange. E passiamo a uno dei nomi, insomma, che hanno trionfato in quest'anno a livello di classifiche, spoticata all'Home Festival. Si tratta di Fra Quintale, ex Fratelli Quintale. Successo poi nel 2017 un album, Regarde-moi, che poi è stato di lungo linea. Abbiamo ascoltato l'altra volta un pezzo fatto con Giorgio Poi. Farai più con me, sarà un altro che ti farà ridere. Non mi hai chiesto mai la luna, ma nel petto era un cratere. Indosserò un'armatura senza senza essere un cavaliere. Goditi l'estate anche per me. Brinderai con delle altre persone. Non ti preoccupare mai per me. Io starò altrove, in un posto freddo tra le tue parole. Questo letto è un deserto senza te dentro, muoio di sete. Dimmi che differenza c'è tra l'amarsi e il volersi bene. Tu volevi solo innamorarti, io soltanto possedere. Passo da essere l'unico che guardia, non ti voglio più vedere. È arrivata un'altra estate, prenderò i muri a testate. Ogni volta che penserò un po' a te. Vuoto come queste strade, passerò i giorni a fumare. E avrò un altro cellulare, senza una foto con te. Metto un altro video che fa ridere. Guardo ancora questa luna, esco e vedo che succede. Indosserò un'armatura, senza essere un cavaliere. Goditi l'estate anche per me. Brinderai con delle altre persone. Non ti preoccupare mai per me. Io starò altrove, in un posto freddo tra le tue parole. Ho rotto un altro cellulare, ma il tuo numero lo so a memoria. E posso cancellare una rubrica intera, ma non questa storia. E posso anche trovarne un'altra che sorride quando chiamo. E ti somigli da lontano, e poi ricomincia tutto da capo. E finisce questa storia di un amore perduto e cellulari e estate, cratere, molto carino e frequentale. E poi passiamo invece ai Nuginea, qui siamo diventati amici avendoli scarrozzati durante il Robot Festival, ovvero Massimo e Lucio, che erano insomma solo loro due, sono esibiti anche insieme a Napoli Segreta. Invece saranno a Roma alle 2:10 di notte, erano un po' dubbiosi sul time slot, ma penso che invece andrà alla grande. Anche perché saranno con una band di 8 elementi, sicuramente coinvolgeranno tantissimo il pubblico. Dopo 2 anni dall'album The Tony Allen Experiments hanno pubblicato Nuova Napoli, e questo è il primo pezzo omonimo del disco, quindi proprio uno statement riguardo alla loro musica. Un disco nato appunto dal ritorno a Napoli, dove Massimo e Lucio sono nati e cresciuti e hanno guardato la loro città a distanza, ricostruendone l'energia dal loro studio a Berlino, calibrando i synth sul meridiano del Vesuvio, il vulcano che da sempre protegge e minaccia la città. Ovviamente i riferimenti sono chiari, l'album è appunto una ricerca musicale, è anche una ricerca anche storica sul suono che ha permeato Napoli durante gli anni 70 e 80, con questa contaminazione di generi tra disco, jazz, funk, ritmi africani. Ricordiamo ovviamente grandissimi nomi di quella scena, ovvero James Senese con il collettivo di Napoli Centrale, che poi fece parte da storica band di Pino Daniele insieme a D'Episcopo, Tony Esposito. Quindi funk, jazz e fusion. E ricordiamo che, a parte la performance di domani notte, per i bolognesi che non possono essere a Roma domani, ricordiamo il 19 ottobre suoneranno al nostro, tra virgolette, Locomotive. e alle 3.40, quando speriamo il pubblico sia bello carico. Ecco, ascoltiamo prima un attimo. Adesso che abbiamo afferrato, insomma, il contenuto di questo pezzo, questa stranissima creatura che si chiama Cristalli Liquidi, hanno pubblicato, più che altro una one man band, ha pubblicato nel 2017 un album omonimo, ritorno della Italo Wave ad opera di Guglielmo Bottin, DJ e musicista veneziano. Uno dei misteri meglio custoditi della nostra musica. Un album che contiene anche una cover di Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere. In alcuni pezzi i testi e il modo di cantare mi ricordo i miei amici Iago Kid, dei testi sono un misto tra Battiato vecchio stile e la voce spesso invece ricorda Pino D'Angiò, ecco, sono questi insomma i riferimenti, italo disco, synth pop, insomma, siamo lì. Rimando chiarissimo al pop degli anni Ottanta, appunto anche nel modo di cantare, la doppia voce. Per un musicista che collaboratore di lunga data di Alexander Robotnik, ad esempio. Tra l'altro di questo album è uscita quest'anno una versione di remix, ma ho dimenticato di dire che il pezzo che stiamo ascoltando si chiama misteriosamente Tubinga. E dopo sarà un live set, alle 4.30 a chiudere lo stage di Italian Attitude ci sarà Lorenzo BTW, ovvero BITW, anche questo un nome sempre più presente nelle line-up dei festival, cresciuto di Roma, o forse non di Roma, attualmente a Roma, ma cresciuto artisticamente a Londra, è uno dei DJ producer più talentuosi attualmente, UK Funky, Garage e Grime, tra l'altro è ospite dei palinsesti di BBC Radio, Rinse FM, NTS, la stazione radio dove ha le sue trasmissioni Mount Kimby e mi sembra adesso anche Orla, forse. È un DJ che è stato insomma endorsato da producer come Code9, Fortet, Elvis 1990s, eccetera. Ha pubblicato un album nello scorso giugno che si chiama Love Junction. Farà un DJ set, non farà un live set, ma noi abbiamo deciso di far ascoltare uno dei singoli tratti da Love Junction, ovvero Canaan, che vede il featuring di un altro artista che si chiama Raha. Molto molto bella questa Canaan di Lorenzo BITW, che in realtà era il suo pseudonimo, che significa But in the Weekend, e lui diceva, vabbè, in inglese non significa un cazzo, poi c'era comunque un suo amico producer che lo chiamava Lorenzo Lorenzo, quindi è diventato Lorenzo BITW, detto all'italiana. E adesso invece siamo passati al terzo palco, ovvero quello sponsorizzato da Red Bull, che propone, come appunto Red Bull Music Academy, le realtà un po' più di confine, un po' più strane, un po' più innovative, insomma, appunto, che reinventano il concetto di cos'è la musica elettronica, a volte anche appunto cose un po' più difficili da seguire. Il programma proposto da Red Bull Music si chiama The 270 Degrees Experience, quindi non 360 gradi ma 270 gradi, e il programma parte un po' più tardi degli altri palchi, parte a mezzanotte, e il primo nome che si esibirà è un duo che è stato già presente, se non sbaglio, qualche anno fa, me le ricordo, allo Spazio 900, sempre per Spring Attitude. Sono i Dem Dyke Stare insieme ai visual di Michael England, quindi un AV live, audio video live. Un duo che fa dark ambient, appunto musica elettronica formato da Sean Canty e Miles Whittaker da Manchester. È il pezzo che ci ascoltiamo in versione editata, come spesso accade, è Curzon, il pezzo di apertura del loro ultimo album del 2016 che si chiama Wonderland Them Dyke Stare. Senta appunto questo suono ominous, cupo, incombente, minaccioso. D'altra parte lo sarebbe lo sguardo fisso, stare, lo sguardo intenso di Dem Dyke. Era il nome di pseudonimo di Elizabeth Southern, ovvero la capa delle Pendle Witches, cioè ovvero un gruppo, un coven di streghe accusata di 3 omicidi, morì in prigione nel 1622 prima di venire sottoposta a processo. E adesso arriva infatti una musicista, sempre per la Red Bull Music The 270 Experience, che potrebbe sembrare appunto una witch, una strega. Si tratta di Rose con due R. La foto che vedo sul sito di springattitude.it, dove troverete tutte le informazioni, mi rimanda una bellissima donna, statunitense sembra. E il testo recita che la biografia di Rose dice: nata nel 1969, morta nel 1909. Il nome d'arte, un omaggio chiaro a Rose Lavie, ovvero il nome che si dava a Marcel Duchamp quando si vestiva da donna. Musica molto rarefatta, con questi bassi pulsanti, nella sua produzione per la O Records, nel senso di acque in francese. Ho ascoltato un po' di cose sempre appunto molto, molto minimali, molto particolari. E ascolteremo due pezzi. Questo che stiamo ascoltando sono ovviamente appunto stati editati, si tratta di The Smallest Footprints, tratto da un EP del 2017, The Ends of Weather. Le sue immagini sono appunto quella insomma della foto famosa di Duchamp come Ross e Lavie, invece al posto del volto c'è un teschio. Quindi non so qual è il confine, se si può definire appunto techno, sicuramente elettronica piuttosto sperimentale. E tra le diverse produzioni di Rose ci sono altri due EP dal titolo The Lotus Eaters e The Lotus Eaters 2. In realtà si tratta di una collaborazione con Lucy, nome di scena del DJ produttore italiano Luca Mortellaro, di base a Berlino. Appunto quest'altra traccia che è entrata adesso piano piano, che è tratta da questa seconda collaborazione. Il pezzo si chiama Inverted Limb. Questo sicuramente più techno, più ballabile in determinate circostanze. Quello di Rose sarà un live, sicuramente sarà un'esperienza ipnotizzante. Dopo i Dan Dexter lei si esibirà dalle 1.15 alle 2.30 e poi tempo del cambio palco alle 2.40, un altro nome emergente della scena elettronica, appunto proveniente da quelle periferie del mondo occidentale, che poi si impongono prepotentemente andando poi a stabilirsi, a lavorare, a vivere nel paese dei loro colonizzatori. Infatti si tratta di Dana Abdelwahed, tunisina di base a Parigi, che però si esibirà in un DJ set dalle 2.40 alle 5 insieme ai Mutek Visuals. Cresciuta nella scena musicale alternativa tunisina, porta una grande dose di innovazione e sperimentazione appunto nell'ambito della musica elettronica dance del suo paese, combinando appunto ritmi urbani e tocchi insomma di musica tradizionale. Stiamo ascoltando un pezzo tratto dal suo EP del 2017 che si chiama Club, ovvero K-L-A-B-B. Il pezzo si chiama Walk On, Nothing to See Here, come dire, circolare, non c'è niente da vedere. Un pezzo che è stato anche molto apprezzato da Forest Hordes, che l'ha inserito nella scaletta del suo DJ Kicks. anzi forse è a Tolosa e non a Parigi. Ci sta, città più meticcia, più piccola ovviamente. Insomma, le città del sud della Francia, vicino al mare, come Marsiglia, quella zona lì. Appunto, riguarda anche l'attenzione del festival sulle musiche delle periferie musicali che adesso sono sempre più presenti nella scena elettronica. Ho scritto una presentazione che, d'altra parte, Roma è Caput Mundi e il suo impero, insomma, si estendeva anche nel Nord Africa e Medio Oriente per un bel po'. Beh, comunque Roma è la città più meticcia d'Italia, dove comunque c'è una tradizione di immigrazione che è data comunque dalla Seconda Guerra Mondiale. Anche noi abbiamo il nostro piccolo, grottesco direi, passato coloniale, per cui l'immigrazione dal Corno d'Africa, Somalia, Eritrea e poi dalla Tripolitania, Libia, eccetera, è sempre stato copioso e sicuramente a Roma ci sono delle comunità straniere tra le più numerose in Italia, penso a quelle latinoamericane, filippine, brasiliane. Somalia, Eritrea, Etiopia, tutti paesi molto molto fortunati dopo la colonizzazione fallita italiana e i vari protettorati inglesi e le guerre civili e la pirateria e le carestie. Molto figo questo pezzo. Ah, tra l'altro ho scoperto che Dina Abdel Wahed ha avuto anche un ruolo di produttrice per una traccia dell'ultimo album di Fever Ray, ovvero NH, e poi compone anche musiche per coreografie di danza contemporanea. E finisce quindi questo pezzo e finisce anche idealmente la programmazione del Red Bull Music Stage 270 Degrees Experience, dopo il DJ set alle 2.40 alle 5 di mattina, del sabato mattina del Spring Attitude, e la programmazione in realtà riprende a dire tutt'altro, perché avevo costruito la scaletta in base alla programmazione che risultava sul sito springattitude.it fino a ieri sera, stamattina, e invece adesso vedo che è tutto cambiato. Perché infatti, come avevo anche scritto nella scheda di presentazione, ci doveva essere il Jungle Stage, come c'era negli spazi del Guido Reni District, ovvero sabato pomeriggio dalle 3:30 fino alle 9:30 dovevano esserci altri concerti. Alcuni dei nomi che erano previsti, ovvero due dei nomi che erano previsti, sono stati recuperati nella programmazione serale, forse perché Fall is the New Spring, però proprio questo weekend a Roma da pioggia, essendo il Jungle Stage all'aperto, e se non sbaglio sarebbe dovuto essere ad ingresso gratuito, niente, hanno spostato dei set e ne hanno annullati alcuni, come per esempio, quindi questo stiamo ascoltando un falso storico, quello del pugliese Makai che stiamo ascoltando adesso, molto inditronico, molto yuppie flu nell'inizio di questo pezzo, e noi ce l'ascoltiamo lo stesso. Abbiamo ascoltato Lazy Days e questa è Mist, tratta dall'album di debutto The Comfort Zone. Fantastico. Vabbè. Adesso vediamo se riusciamo anche ad aggiustare la scaletta. Ok, volendo a tutti i costi rispettare l'ordine cronologico, adesso abbiamo fatto un paio, due o tre spostamenti. E comunque, vabbè, abbiamo dato insomma voce a Makai, lo pseudonimo di Dario Tatoli, produttore, sound designer e polistrumentista. Per un progetto in bilico tra l'elettronica nordica e il songwriting più intimista e mediterraneo. Un disco veramente molto carino e gradevole, peccato non vederlo. Allora, ricominciamo da capo, non c'è il Jungle Stage, per cui sabato sera si riparte dall'ex Dogana, sempre Spring Attitude Stage, andiamo per ordine, Spring Attitude Stage, Italian Attitude, Red Bull, e partiamo alle 22.30 con una personaggina che abbiamo già visto due volte e una quindicina di giorni fa, si tratta di Mavi Phoenix, che noi chiamiamo affettuosamente Mavi Trappetta, cioè Olivia la chiama così. Classe 95 di Linz, austriaca. Cantante di nuovo pop super contemporaneo e rapper. Pezzo che stiamo ascoltando è l'ultimo singolo, si tratta di Ibiza, uscito a fine settembre, infatti ce l'aveva annunciato dal palco del Locomotive per il programma notturno del venerdì di Tutto Molto Bello il 14 settembre scorso, dicendo appunto che sarebbe stato il nuovo singolo. Il live è molto bello, molto piacevole, accompagnata appunto da un DJ. Lei è un po' strana. Ci piace molto. Comunque ha pubblicato un EP dove c'era un singolo che ha fatto abbastanza successo, Aventura, e con quel pezzo l'avevamo ascoltata per la trasmissione dedicata al Primavera Sound di Porto, dove l'abbiamo vista la prima volta. poi altri singoli come Yellow, Bite e quest'ultimo Ibiza. Adesso sto vedendo le date del suo tour, dopo Roma, Olanda, Belgio, ma poi anche Stati Uniti, Islanda, Londra, Colonia, Berlino, Hamburgo, cioè, bella lanciata, ma se lo merita, Parigi, Barcellona, Madrid, Monaco, Zurigo, eccetera. E se avevo, insomma, quasi la certezza che fosse lesbica, già il primo fotogramma del video di questo pezzo, ma anche dai testi, insomma, l'avevo capito, dalla sua postura, dal suo stile, insomma, già mi sembra abbastanza chiaro. E dopo, insomma, la, diciamo, leggerezza anche di Mavi Phoenix alle 23:15 si svolgerà il live di una delle musiciste, io direi ormai, cioè, compositrici più interessanti, anche sperimentali, americana, relocated anche lei a Berlino. Dedicammo una puntata al suo album Chains of Rain anni fa, quando venne a suonare a Locomotive per uno degli episodi itineranti, insomma, durante l'anno di Robot Paths. Poi altri due album in mezzo fino a quello di quest'anno, si tratta di Laurel Halo, tra l'altro l'abbiamo anche lei scarrozzata e, insomma, reincontrata nello scorso weekend, perché anche lei è stata ospite di Robot Festival, però in veste di DJ, mentre a Roma farà un live. L'ultimo album di quest'anno, molto concettuale direi, molto sperimentale, si tratta di Raw Silk Uncut Wood, e questo è il primo pezzo, nonché pezzo omonimo in versione ovviamente editata, molto bello, molto atmosferico. Thank you. l'altro non si capisce quale sia il suo vero nome, Ina Cube. Insomma, mi sembra quasi più originale il suo nome d'arte. Laurel Halo, nata nell'85, ha fatto diversi EP dopo col debutto, col primo album Quarantine sulle etichette Code 9, l'Hyperdub, e noi facciamo appunto la trasmissione sul secondo album Chains of Rain del 2013. Nata nel Michigan, adesso a Berlino, anche i suoi DJ set prevedibilmente sono molto eclettici. Collaborazioni con Julia Holter, John Cale, Lisa Gerrard. E questo dopo Rosil Cancatwood ci abbiamo voluto aggiungere un altro pezzo tratto dallo stesso album, si chiama Quietude. Sei tracce sperimentali, ambient, ispirato dal suo contributo in un documentario di quest'anno, si chiama Possessed. Per dovere di cronaca diciamo che nel defunto Jungle Stage doveva esserci Makai, poi altri due acts che sono stati spostati e ascolteremo in seguito, poi doveva esserci anche il live di Ugo Sanchez, DJ produttore romano che conoscemmo ai tempi d'oro della roboteria e nello scantinato del K, dove facevamo gli after, poi doveva esserci Rafika Sound System e invece tutto ciò non c'è più. Siamo ancora al Spring Attitude Main Stage, sempre a sabato notte, dopo il live di Laurel Halo ci sarà il live di Lorenzo Senni dal suo suono inconfondibile, da mezzanotte 20 all'una e mezza. Il sito di Resident Advisor dice che suona il 5 a Spring Attitude, invece no, speriamo che questa informazione sia sicura. 6 ottobre, ovvero già 7 per il mondo, ma 6 come serata. Lui e il suo immancabile bomber, che all'inizio quando lo vedevo dico sempre questo bomber, e poi ho capito che appunto c'è questa leggenda urbana, insomma un po' come la sua coperta di Linus, il suo bomber nero che porta sempre quando suona. Instancabile investigatore dei meccanismi della dance e delle sue parti, i suoi meccanismi, appunto, nel senso di ingranaggi, capo dell'etichetta vostro, sperimentale presto, e che poi insomma ha fatto il salto con questo album nel 2016, è passato alla Warp, ha pubblicato un album dal titolo Persona. Abbiamo ascoltato un pezzo di Win in the Flat World, a cui adesso abbiamo attaccato un'altra traccia dello stesso disco, si chiama Emotiva 1234, Lorenzo Senni. Dicevo, abbiamo dovuto fare insomma una selezione tra i tantissimi artisti, in realtà ne abbiamo lasciati fuori pochi, dai. Ricordiamo che Persona 2016 non è stata l'ultima release di Lorenzo Senni, perché sempre per la Warp 2017 ha pubblicato una due tracce dal titolo X, Allegro X e The Shape of Trance to Come. Ricordiamo che alla fine del suo set, live set, all'una e mezza, ci sarà il DJ set di due ore di DJ Tennis, grandissimo, bravissimo, molto, molto simpatico, Manfredi Romano. Fondatore dell'etichetta Life and Death. Ma dalle 3:30 alle 6 a chiudere ci sarà Peggy Goo con un DJ set. Abbiamo già osservata ed ascoltata due anni fa per il robot numero 9 al ex ospedale dei Bastardini, anche lei di base a Berlino, ma coreana, classe 1990. E che porta anche nella sua musica un po' della stranezza della musica anche pop, il K-pop. Ha iniziato le sue produzioni, in realtà ha pubblicato quattro titoli solo nel 2016. Mi ricordo che per la trasmissione dedicata a quell'edizione dei Robot facemmo ascoltare dei pezzi tratti da Art of War EP o Art of War EP parte seconda. Poi nel 2018 ha fatto una collaborazione, ovvero insomma un pezzo lei, un pezzo Juju e Jordash, per un'associazione no profit che si chiama Needs. Poi un EP molto lodato dalla critica dal titolo Once. Invece il pezzo che stiamo ascoltando è appunto una delle altre tracce così sciolte pubblicate, vabbè, no, in realtà insieme ad un remix pubblicate nel 2018, e da proprio l'idea del viaggio del movimento magari su un treno, e si chiama Traveling Without Arriving. Appunto in questa risistemazione, cancellazione, distribuzione di live a causa della cancellazione del Jungle Stage, vediamo che la programmazione invece del palco dedicato alle realtà italiane più interessanti, ovvero Italian Attitude Stage by Molinari, inizierà un quarto d'ora prima del Main Stage Spring Attitude, inizierà alle 22.15 con uno dei nomi che appunto erano previsti il sabato pomeriggio, quindi un set live di 40 minuti che sarà super energetico, esplosivo, zompettante come lui quando lascia la console per suonare il basso, ovvero Bruno Bellissimo. Allora, questo pezzo tratto dal suo ultimo album Ghetto Fare, non vicino alle Baleari ma invece vicino a Tarefa in Andalusia, invece una località marina sull'Oceano Atlantico che si chiama Bologna, che ci sono andata apposta. Tra l'altro c'è un sito archeologico molto molto interessante di una colonia romana che si chiama Baelo Claudia a Bologna. Questo video di Bologna Balearica molto divertente, e leggiamo anche la divertente biografia di Bruno Bellissimo, DJ, produttore e polistrumentista italo-canadese, uno di due fratelli gemelli nati da genitori italiani emigrati in Canada alla fine degli anni 70. Bruno passò la sua infanzia nei sobborghi della città di Toronto, dove il padre possedeva un videonoleggio e si dilettava come regista di pellicole di fantascienza indipendenti, mentre la madre gestiva un piccolo caffè nel più grande sobborgo italiano della città, storico ritrovo degli artisti della zona. E quindi grazie anche al sostegno dei genitori, cresciuto in questo ambiente molto creativo, già in giovane età si è dedicato alla musica, con un passaggio insomma generazionalmente giustificato alla musica elettronica. Insomma, a 26 anni si legge è costretto a trasferirsi in Italia e adesso insomma è qui tra noi a Bologna. Ha anche fatto parte come bassista della band di Colapesce per il tour dell'album Ego Mostro. Ultimamente l'abbiamo visto spesso, a partire una serata qui del Critical Book and Wine al TPO qualche anno fa, Poi diciamo in una serata di amici, dopo aver fatto il fonico, il tecnico per alcuni concerti, anche lui si è messo a fare un DJ set, e poi anche lui il live set dopo Mavi Phoenix, appunto nella serata, insomma nella party notturno, di tutto molto bello a settembre, e invece appunto è stato spostato, così avrà anche forse più pubblico, chissà, alle 22.15 del sabato sera, e dopodiché alle 11 ci sarà il live degli Odeon. Quartetto formato da due coppie di fratelli, Luciano e Valerio Raimondi e Michele e Giacomo Righini. Hanno pubblicato il primo EP nel 2015, poi un altro nel 2017, fino al debutto con l'album Galaxies quest'anno. E il pezzo che stiamo ascoltando è il pezzo di apertura dell'album, si chiama Recovery, a cui ho attaccato invece un pezzo che mi aveva fatto scoprire appunto la Discover Weekly di Spotify, ovvero Capricorn. E se questo pezzo con sul giro di basso ricorda gli inizi degli Air, più lounge e più cosmici, spaziali, d'altra parte l'album si chiama Galaxies e sono tanti i riferimenti a costellazioni, termini come parsec, l'unità di misura, rocket launch, che appunto era uno dei pezzi già pubblicati nel 2017, landing. Se appunto dicevo questo pezzo ricorda i primi Air, Capricorn che ci abbiamo attaccato, che prima o poi arriverà, ecco, sta arrivando secondo me, ricorda più Taiko. La scheda dedicata a Odeon sul sito springgratitude.it recita: l'amore per le melodie oblique dei Talk Talk, per i riff celestiali dei Cocteau Twins, unito alla cinematicità più tesa dei Goblin. abbiamo detto, abbiamo dovuto fare delle selezioni, quindi poi a mezzanotte ci sarà il live dei Casino Royale, grande ritorno. Poi vabbè, abbiamo evitato insomma un po' in queste ultime puntate di riproporla sempre, Mischeta, ormai siamo diventate parenti, avrà il suo esplosivo e sempre gradevolissimo, divertentissimo live dall'1.45 alle 2.45 e poi seguito da un suo compare, insomma l'artefice anche del successo di Xananas, ovvero Andrea Mangia do Salento, ovvero Populus, ovviamente un live dalle 3 alle 4. Viene sempre raccontata insomma la storia come dal Salento venne scoperto, scritturato per il suo primo album dalla More Music all'inizio di questo secolo e millennio. Poi c'è stato un periodo in cui è un po' scomparso e poi anche lui con Night Safari affascinato dalle musiche dell'Africa e poi si è spostato come molti su quel paese dell'Atlantico che guarda, sempre guardato insomma storicamente e idealmente all'America del Sud, ovvero all'Africa occidentale, sud-occidentale, Angola, Mozambico e Brasile, ovvero a Lisbona, cioè Portogallo, a Lisbona, dove ha concepito e creato il suo ultimo album, Azulejos. Possibile che pronuncio male questa parola? Azulejos del 2017. Il primo pezzo di apertura si chiama Alfama e ce ne abbiamo aggiunto un altro che si chiama Alala. Deve avere un significato, oltre sì, forse sarà sempre lo stesso, il grido di guerra greco ripreso poi da fascismo italiano, si vede che viene usato spesso insomma in lingua portoghese, anche perché uno dei pezzi più famosi, più cari per noi del Cansed Ser Sexy era Alala, che è arrivata adesso. Le cose che non ascolteremo, anche perché se è fatta una certa, ci sono i Capo Fortuna che faranno il loro live dalle 4 alle 5, ricordiamo Italian Attitude Stage, una collaborazione di Rama, The Pasta Boys, nome leggendario dell'house italiana europea, e Ricky Cardelli, polistrumentista, parte dei Funk Rimini. Ed invece a chiudere il palco dalle 5.15 alle 6 sarà un duo sempre italiano, siamo sul palco degli italiani, ci mancherebbe, ovvero i Cassiel. Sono stati spostati dalle 4.20 del sabato pomeriggio a praticamente l'alba della domenica. Un duo composto da Federico Bisozzi e Andrea Normanno. Ringrazio personalmente Federico Bisozzi che ieri al volo mi ha mandato l'MP3 di questo pezzo, Sidere, un pezzo che risulta come singolo di quest'anno, anche se nelle mie ricerche ho scoperto che già l'anno scorso era stato proposto in free download dalla testata Accelerator. C'è un disco di imminente uscita per la Bad Panda Records. Federico Bisozzi, polistrumentista, e Andrea Normanno, DJ, produttore, batterista di grande esperienza. Così finiva in modo brusco Sidere dei Cassiel, e così in modo morbido, tenero, inizia questo pezzo di Yakamot Kotska. Bellissimo pezzo, anche questo è stato posto alla mia attenzione da Discover Weekly, che adesso insomma Spotify ha imparato un po' a conoscermi. Yakamot Kotska, ovvero Giacomo Mazzuccato da Venezia, ancora solo 24enne, l'abbiamo già visto ed ascoltato per un'edizione dell'Elita qualche anno fa. Molto molto bravo, e infatti adesso non so, anche apprezzato tanto da appunto non essere parte dell'Italian Attitude Stage, come anche Lorenzo Senni. Ovviamente anche noi abbiamo dei nomi grossi tra virgolette che possono stare alla pari di X, internazionale, infatti siamo passati al programma Red Bull Music The 270 Degrees Experience, dove ci sarà appunto lui alle 23.30 con il suo live audio-video. Come avevamo detto quando l'abbiamo passato la prima volta, quando l'abbiamo conosciuto, i temi dei suoi pezzi che si possono sentire sia dalla musica che dai titoli, e appunto sono quelli della precarietà, dell'impermanenza, e questo rimane anche nel secondo album dopo il debutto nel 2015 con Usually Nowhere. Quest'anno un altro bellissimo album dal titolo Slowly Fading. Questo pezzo che stiamo ascoltando da un po' si chiama This Will Always Be The Best, che abbiamo editato, per aggiungercene un altro. Quest'altro bellissimo pezzo si chiama She Said, ed è questo il nome con cui concludiamo questa trasmissione, prima della nuova stagione, ultima su Radio Kairos, almeno in diretta, chi lo sa, passaggio a Radio Fujiko, e Mighty FM cresce, cambia. A parte ciò, ritorniamo a Spring Attitude e ricordiamo che dopo il live di Yakamoto Kotsuka ci sarà Giorgio Gigli con Bicord featuring Noise Video, anche questo un audiovisual live dall'1.15 alle 2.15. Giorgio Gigli sempre presente allo Spring Attitude, e poi 2 ore di audiovisual live del incommensurabile Max Cooper, che non abbiamo passato perché insomma abbiamo ascoltato tante volte, non ha fatto dischi nuovi nel frattempo, che infatti al Maxi fece una performance bellissima, poi abbiamo anche rivisto al Today's Festival l'anno scorso a Torino, per chiudere appunto il Red Bull Music Presents the 270 Degrees Experience con il live di Daniele Sciolla dalle 4.45 alle 5.30. Già parte degli Anudo e degli Elefanti Des, tutti e due si sono esibiti a Spring Attitude nello spazio delle Guidoreni ai tempi. Daniele Sciolla, uno scienziato del suono e della percezione, muovendosi tra digitale, sintetizzatore, elettronica e pop lunare. Quindi insomma una grande chiusura da non perdere se le energie ci sosterranno per lo Spring Attitude 2018. Altro, preso un po' dall'emozione, non ho neanche sottolineato il fatto che la sigla di questo episodio, non avendo pensato ancora una sigla vera e propria per la nuova stagione, era una versione più prolungata della prima gloriosa sigla della prima stagione di Mighty FM, ovvero l'inno alla gioia, che dopo abbiamo proposto in tutte le salse, ma nella versione sintetica e elettronica pazzesca di Wendy Carlos, tra l'altro uno dei compositori di musica elettronica storici, pionieri, proprio super apprezzati, nonché transgender. Ovviamente colonna sonora di Arancia Meccanica. Finisce così Yakamoto Kotsuga, finisce così questa puntata dedicata a Spring Attitude 2018. Ciao da Claudia Mighty Mao.